Incominciamo, anche se non è ancora arrivato il terzo dei presentatori previsti, Paolo Pasi, che però fa un'entrata d'effetto, dovendo solo infilarsi le scarpe abitando qui dietro, esatto. non dovrebbe tardare. Presentiamo una nuova rivista, un nuovo progetto che porta un nome storico, illustre, impegnativo e che fa seguito alla conclusione del percorso di una rivista importante come la Rivista Anarchica. Non è la continuazione di questa rivista, ma in qualche modo è intrecciata con quella per la presenza di alcune delle compagne e dei compagni che vi hanno fatto parte e per una serie di altri motivi che verranno magari detti. E come Calusca, quando è stata proposta la presentazione di questa nuova iniziativa editoriale, abbiamo invitato a volgere tutto al femminile. Non è che sia costato un grande sforzo, perché nell'indice stesso l'elemento femminile era ben presente, addirittura prevalente, però abbiamo chiesto, già che ci siamo, andiamo dritti su quel filone. E questa rivista ha avuto la fortuna di trovare anche un editore, cosa che costituisce spesso un problema non da poco nelle iniziative militanti del nostro giro. Quindi è in qualche modo una novità, un qualcosa che si colloca nel presente. Anche se, ripeto, ha una serie di ancoraggi alla storia del movimento anarchico libertario, ma si colloca nel presente e si colloca in quella dimensione di attività politico-culturale editoriale che poi attraversa anche le biografie almeno di una parte di chi anima questa rivista, no? Se ne parlava prima, ieri c'è stato un gancio in vista di un'iniziativa prossima che vorrebbe far comunicare i lavoratori dell'editoria, quelli che danno forma ai libri prima che entrino in tipografia, con i lavoratori che gestiscono la distribuzione dell'editoria, i magazzini, due figure del lavoro salariato che però finora, per una serie di motivi in buona parte ideologici, sono state finora separate. Ecco, in questa iniziativa partecipano anche alcuni di quelli che scrivono su questa rivista e questa iniziativa, che andiamo a preparare per il 14 prossimo, sta proprio dentro il nostro presente, perché è uno dei tentativi attraverso i quali il lavoro salariato cerca di far fronte all'infinità di attacchi, di brutture, di sgarbi che riceve quotidianamente. Però questa è sempre stata la dimensione del fare riviste militanti, quindi in realtà sì, è il tratto dell'oggi, ma non è un tratto nuovo, perché è sempre stato così. Ecco. Su qual è invece l'intenzione più profonda, la discussione che c'è stata alle spalle, quelli che saranno gli obiettivi a venire, i prossimi due numeri che sono già in gestazione, ci incominceranno a dire le due compagne con tante A nei nomi e poi quando arriva Paolo Pasi ci facciamo dire qualcos'altro. Okay. Ti ringrazio. Beh, intanto grazie a tutte e tutti per essere venute e venuti e anche grazie alla Calusca per averci invitato. Io ho pensato insomma di fare un breve cappello introduttivo, breve perché insomma non vi voglio annoiare troppo e poi magari parleremo un po' dei contenuti insomma e degli obiettivi di questa nuova rivista. Poi ovviamente lascerò la parola anche a Sara e anche a Paolo e spero insomma che se avrete qualcosa da dire, da chiedere, insomma non esiterete, ecco. Allora, Emma è un periodico semestrale di culture e di pensieri libertari che è nato lo scorso marzo, quindi marzo 2021. È una rivista che è nata da un'esigenza, che è quella di ritagliare all'interno del panorama informativo italiano uno spazio per i pensieri, per le lotte, per le esperienze di matrice libertaria. L'idea era quella di creare una rivista che si proponesse di affrontare attraverso delle analisi di ampio respiro i problemi e i punti critici del nostro presente, mantenendo sempre molto alta ovviamente l'attenzione critica nei confronti del potere, delle ingiustizie, degli autoritarismi. Una rivista che si ponesse l'obiettivo di provare a fornire degli strumenti per interpretare il contesto sociopolitico e socioeconomico in cui siamo immersi e che rifiutiamo e che vorremmo cambiare, e anche una rivista che si rivolgesse alle lettrici e ai lettori senza sicumera e senza la pretesa di dettare una linea o di avere una verità in tasca, ma con la sincera volontà di intraprendere un dibattito, di iniziare tutta una serie di riflessioni sul nostro presente. Questa sensibilità, a mio avviso, la si può già intendere dal sottotitolo che abbiamo dato alla rivista, che è Culture e pensieri libertari, che è un sottotitolo plurale, e non è un caso che sia così, perché riteniamo che il sottotitolo dia conto del fatto che esistano tante sensibilità e tanti anarchismi all'interno di questa diciamo macro universo che è quello libertario e anarchico, e noi volevamo esattamente dare conto di questo, di questa pluralità e di questa ricchezza. Il nome della rivista, come ha giustamente detto il compagno nell'introduzione, è un tributo a Emma Goldman, che immagino insomma conosciate più o meno tutti, e che abbiamo scelto non soltanto per un amore sconfinato che proviamo nei suoi confronti, ma anche perché Goldman è stata un'anarchica che ha partecipato a moltissime lotte del suo tempo e che si è occupata di tantissimi temi di cui prima di lei nessuno si era occupato ancora all'interno dei movimenti rivoluzionari. Penso ad esempio all'emancipazione femminile, alla sessualità, alla contraccezione, ma anche al teatro, all'arte, all'importanza della bellezza. Ad esempio, erano temi di cui Goldman si occupava tra l'Ottocento e il Novecento, di cui in quel periodo nessuno ancora si era occupato. È stata dunque diciamo un'anarchica che ha saputo tirare i lembi dell'anarchismo fino a coprire tutta una serie di tematiche, tutta una serie di lotte fino a quel momento inedite. E dare il nome Emma a questa rivista è stato per noi un rendere omaggio a lei, alle lotte e ai temi di cui si è occupata, e anche cercare di trarre ispirazione da questa sua capacità di declinare in tanti temi e in tanti ambiti le lotte per l'emancipazione sociale in chiave libertaria. Emma è un progetto di rivista cartacea e digitale, quindi potrete leggerla su carta, oggi ne abbiamo portate delle copie, potete dare un occhio, ma anche in PDF. Ci è stato chiesto più volte come mai abbiamo scelto di concentrare i nostri sforzi e anche insomma sforzi materiali ed economici per la produzione di un progetto cartaceo nel 2021. La risposta che ci siamo date è che crediamo molto nei progetti editoriali cartacei, sia perché la carta è il miglior supporto di lettura esistente e lo è ancora, nonostante sia stata data per morta molte volte, è ancora la prima scelta delle lettrici e dei lettori, sicuramente per i libri, molto per le riviste che stanno vivendo una sorta di rinascimento in questo periodo, anche riviste di area, anche riviste di movimento. È nata recentemente Scorci, una rivista semestrale fatta da anarchiche e anarchici siciliani, ad esempio, quindi insomma stanno nascendo tante riviste, ma anche perché insomma volevamo creare un oggetto culturale, diciamo, che potesse stare idealmente sul tavolo e sulla scrivania delle lettrici e dei lettori, e che potesse, diciamo, aspettarli e dar loro il tempo di digerire e di riflettere su quello che c'è all'interno della rivista. L'ottica con cui l'abbiamo fatto è un'ottica di fruizione più lenta, oltre che di creazione di cultura materiale, diciamo. Anche la scelta della periodicità, un semestrale, va in questa direzione, cioè nella direzione di una fruizione più lenta contenuti culturali e politici. Abbiamo scelto di pubblicare un semestrale che non ci permette ovviamente di affrontare la cronaca, ma favorisce in realtà un approccio più lento, che ci sembra possa essere una buona risposta in realtà all'infodemia e a questa insofferenza che noi sentiamo in primis, ma che ci sembra, insomma, di condividere con altre e altri, nei confronti di questa mole gigantesca di notizie flash e assolutamente superficiali che caratterizza il nostro presente. Ecco, quindi diciamo che la scelta di un oggetto cartaceo con uscita semestrale cerca di rispondere un po' a questa esigenza che abbiamo sentito, cioè di far fronte a questo bisogno di una maggiore lentezza, ecco, sicuramente nell'approccio a questioni culturali e politiche. Qualche parola invece sui contenuti di Emma, sia in generale sia sui contenuti del primo numero. Come ho già detto, Emma vuole occuparsi del presente, vuole occuparsi del nostro tempo. Abbiamo cercato di far fronte a questa esigenza che sentivamo di, appunto, occuparsi dell'oggi, perché insomma c'è un po' questa tendenza a occuparsi molto di storia, che va benissimo, e io in primis, insomma, sono spesso in giro a parlare di Emma Goldman, quindi lo faccio, però insomma diciamo che c'è sembrato che ci fosse un po' una carenza da questo punto di vista, cioè di pubblicazioni che si occupassero dell'oggi, che è più difficile evidentemente rispetto a occuparsi della storia. Ospitiamo quindi dei long form, degli articoli lunghi, articoli ampi, di ampio respiro, che speriamo possano fornire degli spunti di riflessione e di dibattito, appunto, sul presente, e anche degli strumenti di interpretazione per provare a comprendere la complessità del mondo in cui siamo immersi. Quando abbiamo pensato a come strutturare la rivista, come strutturare i contenuti, abbiamo deciso di dividerla in aree tematiche, e quindi di non avere un tema che proseguisse per tutta la rivista come alcune pubblicazioni fanno, ma invece di lasciare le collaboratrici e collaboratori liberi di occuparsi dei temi che ritenevano più, insomma, migliori per loro, ecco, più interessanti per loro. Abbiamo previsto anche di strutturare c'è Paolo, ok, è arrivato Paolo Pasi. Abbiamo previsto anche di strutturare la rivista in questo modo: una parte iniziale dedicata a macro temi di attualità, essendo appunto un semestrale, come ho detto, non ci potremo occupare di cronaca, ma soltanto appunto di macro temi che riguardano l'oggi. In questa parte iniziale cerchiamo di dare spazio, sì, guarda, c'è posto. Cercheremo di dare spazio ai temi caldi di cui molto si dibatte in Italia e all'estero, per cercare di fare un po' il punto su degli argomenti dopo che appunto se ne parla moltissimo sui media mainstream, e spesso purtroppo anche male, ecco, diciamo così. Quindi ad esempio sul numero 1, nella parte iniziale, trovate uno scritto di Erika Picco e Sara Troglio sul rapporto tra monumentalistica pubblica e potere, e sui motivi e sulle ragioni per cui alcune persone ritengono che sia giusto appunto abbattere alcune statue, e anche sul significato del termine assolutamente abusato e di cui non si è esattamente compreso l'accezione, di cancel culture. Sempre in questa sezione rientra ad esempio lo scritto di Giulio Derrico su Frontex e sulle richieste di abolizione di questa superagenzia europea che si occupa delle politiche migratorie europee, che sono in realtà basate sulla sorveglianza, sulla detenzione, sull'espulsione e sulla violenza agita nei confronti delle popolazioni migranti. Andando avanti a sfogliare la rivista troverete un reportage, che è una sezione a cui teniamo moltissimo, perché appunto ci teniamo molto a pubblicare diversi metodi espressivi e non soltanto gli articoli. Dal prossimo numero ci sarà anche uno spazio per la graphic novel, oltre al reportage. Poi abbiamo riservato uno spazio per l'estero e per tutto ciò che succede, oltre tutto ciò, insomma, quello di cui possiamo occuparci e che succede al di fuori dei confini italiani. Sul numero 1 trovate ad esempio esempio uno scritto di Renzo Sabatini sugli Stati Uniti e sull'aumento di povertà, abusi di polizia e anche sulla terrificante crescita di gruppi neonazisti e suprematisti bianchi. C'è anche uno spazio dedicato ai femminismi e al transfemminismo, sul numero uno se ne occupa Eleonora Mizzoni, che ci racconta di come in realtà in Italia l'accesso all'aborto sia assolutamente ostacolato dal 70%, dalla presenza degli obiettori di coscienza che si attesta intorno al 70% e di come questa cosa si sia aggravata con la pandemia. Abbiamo anche deciso di pubblicare un box a corredo di questo scritto per aiutare le donne che decidessero di abortire, le donne o le soggettività LGBT che decidessero di abortire e che magari non sanno esattamente quali sono gli step e quali sono i loro diritti a dispetto appunto degli obiettori di coscienza che si trovano negli ospedali. C'è poi una sezione dedicata all'ambiente e sul numero uno se ne occupa Alberto Di Monte, che ci parla di montagna e anche della necessità di una nuova cultura di montagna. C'è arte e cultura e questa sezione è in realtà è coperta da uno scritto di Sara sul collettivo di arte attiviste Guerrilla Girls, poi non so se insomma Sara vorrà approfondire l'argomento. C'è una sezione dedicata al pensiero politico, sul numero uno se ne occupa Giorgio Fontana, che racconta appunto del legame tra libertà e responsabilità a partire dagli scritti di Carlo Levi. C'è spazio per la filosofia, sul numero uno c'è Annie Brun, uno scritto di Martina Guerrini. Ci sarà sempre uno spazio per le donne anarchiche, uno spazio che abbiamo chiamato Ritratti. Lo facciamo perché insomma abbiamo ben presente che purtroppo ci sono moltissime sono le donne che sono finite nel dimenticatoio della storia e tra queste tantissime sono le donne anarchiche che in realtà hanno partecipato attivamente al loro tempo ma alle lotte sociali del loro tempo ma sono state assolutamente dimenticate, quindi cerchiamo di far fronte a questo dando spazio ad una donna su ogni numero e su questo numero si parla di Virgilia D'Andrea. Ora insomma forse la carrellata sta diventando un po' noiosa, c'è anche una sezione che si chiama Glossario in cui cerchiamo di occuparci di un concetto o di una parola cara al movimento libertario o in generale al pensiero anarchico e libertario e sul numero uno ci occupiamo di ecologia sociale, se ne occupa Selva Varengo. Abbiamo ritenuto che fosse importante ospitare un glossario libertario perché ci è sembrato che insomma ci fosse bisogno di tornare su alcuni concetti che sono importanti e fare un po' di disambiguazione perché ci è capitato anche con le poche presentazioni che abbiamo fatto in questo periodo di magari ricevere domande su ma libertario allora siete anarcocapitalisti, quindi ci è sembrato insomma che ci fosse una necessità di fare un po' di chiarezza su alcuni concetti importanti e quindi insomma cercheremo di portare avanti su tutti i numeri questa sezione, questo glossario. Sul numero 2 parleremo dell'antimilitarismo ad esempio e anche un'altra sezione a cui io tengo molto è quella dei luoghi, perché volevamo assolutamente con Emma parlare delle idee, parlare delle teorie, ma anche affrontare la prassi, affrontare le pratiche e dare spazio a tutte quelle persone che si occupano tutti i giorni di cercare di concretizzare le idee libertarie anarchiche, insomma di metterle in pratica. E sul primo numero si parla appunto della comune libertaria La Gatta Nera, che è una comune che si trova nella Bassa Modenese, in una frazione di Carpi. Ovviamente c'è la fiction, dico ovviamente perché se ne occupa Paolo, sul primo numero c'è un suo racconto e anche questo insomma è una sezione a cui siamo molto legati e che riteniamo essere importante perché riteniamo in realtà che sia importante la fiction anche quando facciamo politica, sia perché è utile per fare critica sociale ma anche perché è utile insomma per darci modo di prefigurare futuri migliori o anche peggiori, insomma, cercare di capire dove stiamo andando e dove ci porta la strada che abbiamo preso oggi. C'è una sezione che si chiama Libri, molto insomma creativo il titolo, si occupa ovviamente di libri. credo di aver detto tutte, di aver parlato di tutte le sezioni. Prossimamente cercheremo, insomma, di intanto aumentare la fogliazione. Questo numero ha 82 pagine, il prossimo numero in questo momento non siamo ancora riusciti a definire, ma abbiamo quasi il 50% di pagine in più, quindi è stato un bel incremento, ecco, dal numero 1 al numero 2. E cercheremo di occuparci anche di tecnologie, ad esempio, prossimamente di teatro, di sport, apriremo anche alle graphic novel, come vi ho detto. Insomma, ci occupiamo di tanti temi per dimostrare che, appunto, il pensiero libertario può essere declinato in tanti ambiti, ed è questo, insomma, che cerchiamo di dimostrare con Emma, cioè che esiste una pluralità all'interno del pensiero libertario e che esiste la possibilità concreta di declinare le lotte per l'uguaglianza, per la giustizia sociale, contro il potere, in tutti gli ambiti del vivere, dell'organizzazione sociale e anche della cultura. Ecco, questo era un po' l'obiettivo con cui ci siamo, insomma, abbiamo dato vita a Emma, che è un progetto assolutamente in divenire, perché al momento abbiamo pubblicato un solo numero, stiamo lavorando al numero 2, al numero 3, eccetera. Cerchiamo di fare nostre tutte i feedback positivi e negativi che ci arrivano per migliorare il progetto, e insomma questo è quanto. Ora non vi voglio annoiare più di tanto, e lascerei la parola a Sara e a Paolo. Ecco, mi sembra che hai detto tutto, a parte il font usato, c'è tutto. Però ho una domanda. In quanti siete a farla? Allora, in redazione ci siamo io e Sara, quindi redazione al 100% femminile, ovviamente è molto semplice se siamo in due. Però sì, redazione completamente al femminile, e poi, insomma, c'è un giro di collaboratori e collaboratrici veramente ampio, che ci hanno sia dato una mano nella definizione anche del progetto. Ad esempio Paolo è stato vicino a noi anche quando la rivista non esisteva, perciò, insomma, si è creato una bella comunità, ecco, di compagni e compagni che credono in questo progetto e che hanno, insomma, deciso di occuparsene, ecco. Sì, poi se posso aggiungere un pezzettino, ovviamente abbiamo anche, come giustamente Roberto ricordava, un editore, che è una cosa, sì, lui ha detto strana per una rivista di movimento, sì, è vero, ci sono stati altri casi, però appunto noi abbiamo fatto questa scelta per delle ragioni ben precise, tra cui la volontà di parlare, di agire, diciamo, su un doppio binario. Quindi sicuramente noi vogliamo parlare a chi ha una sensibilità simile alla nostra, e nello stesso tempo non vogliamo essere la voce di nessun movimento, la voce di nessun rappresentante, ma piuttosto vogliamo essere, speriamo di riuscire ad essere, una piattaforma, diciamo, di discussione, di incontro di temi e di sensibilità. Perché? Perché l'urgenza, come giustamente diceva Carlotta, è un po' quella di mostrare che l'attitudine libertaria è, si trova in tanti ambiti della vita, ma soprattutto spesso è spontanea, cioè spesso non c'entra con, viene ancora prima, o meglio, della coscienza e dello sviluppo di una consapevolezza di appartenere, diciamo, a una linea di pensiero o a una linea di azione. Quindi avere un'attitudine libertaria vuol dire essere aperti al mondo transfemminista, vuol dire essere aperti alla dimensione ambientalista, vuol dire applicare tutta una serie di idee, parametri al mondo della cultura, al mondo dell'arte, così come al linguaggio, per esempio, prestare anche cura e attenzione alle parole che si usano. E questo quindi significa anche cercare di parlare un linguaggio il più possibile inclusivo, e questo chiaramente abbiamo cercato di farlo con le rubriche, come giustamente, insomma, ha illustrato Carlotta in maniera assolutamente completa. Però anche, come dire, a livello formale, cioè Emma è un progetto che vuole anche essere curato, essere bello, esplorare forme espressive diverse, quindi sicuramente le varie forme di scrittura, il reportage, il saggio, la fiction, ma anche la rivista in sé, quindi la struttura grafica ha un suo valore, e ci abbiamo lavorato molto. In questo caso ci ha assistito il nostro grafico Giancarlo, quindi anche in questo abbiamo avuto un aiuto importante, così come un aiuto importante ce lo dà il nostro editore, Prospero Editore, che ci permette di essere dentro il mercato con tutto, diciamo, gli annessi e connessi che comporta, tra cui un prezzo di copertina che si inserisce in un discorso anche, insomma, complesso ma neanche troppo, di valorizzazione del lavoro di tutti. E quindi ci permette di arrivare nelle librerie, ci permette di arrivare ovunque sostanzialmente in Italia, e anche in realtà abbiamo abbonati, insomma, anche un po' in giro per il mondo. Quindi anche questo per noi è stata un'urgenza che abbiamo sentito, quella di riuscire ad essere il più possibile inclusive. Non da ultimo, diciamo, il nostro obiettivo che vediamo all'orizzonte ancora, beh, lontano, però insomma speriamo non così tanto, è che questo progetto nella nostra mente, nelle nostre intenzioni, deve essere sostenibile, almeno insomma deve reggersi sulle proprie gambe, e quindi stiamo lavorando in questo senso. Tutto quello che facciamo noi in questo momento è volontario, il nostro lavoro così come lo è quello di tutti i nostri collaboratori e tutte le nostre collaboratrici, però l'idea appunto è quella che vendendo le copie poi pian piano si vada a costruire una base che ci permetta anche di, insomma, di sostenerci, di riconoscere il lavoro degli altri, e di, insomma, non perdere, non abbassare mai l'asticella, ecco, piuttosto di alzarla. Niente, volevo solo aggiungere questo mio sent, poi se volete io vi parlo anche di quello che ho scritto per Emma 1, però ecco, non vorrei spoilerare troppo, quindi non so, magari se c'è interesse poi posso raccontarlo. La presenza di un editore, io lo dicevo nel senso, che culo, anche perché questo editore si è dato disponibile per quel che so a pubblicare anche un libro importante come quello coordinato da Ratti sui morti ammazzati dalla polizia dal 70 ad oggi, per cui un editore che insomma, ci mette del suo anche sul piano dell'impegno e delle idee. Oltre a parlare del tuo pezzo, visto che ne avete accennato prima e so che ci state lavorando, accennate ai prossimi due numeri, cioè quello che viene e quello come che... quella di prima, sono prontissima. Una roba sono prontissima. Magari un po' più asciutta. Più breve. Sì. Allora, prossimo numero, allora c'è un bel racconto di Paolo, quindi già ve lo anticipo, poi parte alta della rivista dovrebbe arrivarci uno scritto sulla polizia e sul movimento per l'abolizione della polizia a fronte di quello che è successo negli ultimi due anni, diciamo, negli Stati Uniti, e poi a quello che è successo anche in Inghilterra e questo movimento che si è creato e che chiede appunto l'abolizione della polizia. Poi dovrebbe esserci uno scritto sempre per la parte alta su water grabbing, e poi per quanto riguarda l'estero abbiamo uno scritto già arrivato su il fenomeno dei desaparecidos in Messico, di cui in realtà in Italia non si parla molto perché sembra un fenomeno che è rimasto negli anni 70, invece continuano tuttora a sparire persone che poi vengono torturate, uccise, anche cremate e stipate in campi di concentramento, che vengono ciclicamente trovati da questi collettivi autogestiti di madri e di familiari dei desaparecidos, perché il governo assolutamente non fa nulla, in realtà è anche, insomma, in combutta con i gruppi che operano in questo modo. Sempre per l'estero ci sarà uno scritto sugli aborigeni australiani e sulla loro storia, sulle loro lotte, su quello che è successo in Australia a questa minoranza, che in realtà ora è tale ma prima erano gli abitanti del continente. Un reportage a cui tengo molto, vabbè, forse per anche i miei trascorsi personali, però sul porto di Gaza City, quindi su quello che è successo, non tanto sull'attualità, proprio perché insomma ci addentreremmo in una questione ancora totalmente aperta e anche piuttosto spinosa per quanto mi riguarda almeno, però appunto un reportage fotografico, quindi un linguaggio che permette anche un altro tipo di sguardo su quello che è successo al cuore di una città che è una città di mare, come tutti e tutte insomma sappiamo. In questi casi il porto è il centro della vita, il fulcro attorno a cui ruota tutto, invece nel caso di Gaza City questa cosa è stata forzatamente annullata, quindi qualcosa che era un cuore pulsante adesso è uno spazio assolutamente vuoto e anche pieno di infrastrutture, perché ci sono stati investimenti anni fa in questo senso, oggi completamente abbandonati, addirittura dopo gli ultimi bombardamenti ancora appunto peggio, pieni di macerie. Sì, poi guarda, ho trovato l'elenco dettagliato. Per la sezione pensiero parliamo di Belux, per la sezione filosofia parleremo di Philosophy for Children, poi ci sarà l'antimilitarismo come voce del glossario, per la parte controstoria di cui non vi ho parlato per il numero 1 se ne occuperà Marco Rossi e ricorderà gli arditi del popolo, visto che il 2021 è il 100° anno dalla fondazione di questo gruppo. Poi la donna di cui si parlerà e che in realtà sarà sempre la donna che verrà ricordata anche in quarta di copertina e il cui profilo sarà messo anche nel sommario, in questo caso c'è Goldman, anche se la donna all'interno era Virgilia D'Andrea, perché ci sembrava, insomma, visto che ci chiamiamo Emma, abbiamo pensato di dedicare a lei la quarta e il profilo in sommario, però dai prossimi numeri la donna di cui si parlerà all'interno, la donna anarchica di cui si parlerà all'interno, sarà anche sua, sarà anche la citazione in quarta di copertina, il profilo nel sommario sarà Louise Michel. Poi parleremo di Genuino Clandestino per la sezione agricoltura, per la sezione luoghi parleremo invece della Shigera, il collettivo della Shigera ci ha mandato uno scritto, e poi ci sarà una sezione nuova che inauguriamo con il numero 2, che è quella dedicata all'antropologia libertaria, ci sarà uno scritto di Andrea Staid su appunto in che modo l'antropologia può essere e deve essere libertaria. Penso di aver detto tutto in realtà, più o meno. Sì, ricordiamo anche magari Spica, sarà il nostro illustratore. Certo. Esatto, della sezione antropologia. Insieme a Valeria De Paoli, sì, che curerà la graphic novel per la sezione ambiente, si occuperà delle specie importate e di questa appunto dell'importazione delle specie da un continente all'altro e dei danni che in realtà questa cosa lascia da un punto di vista ecologico e ambientale. Poi ci sarà la sezione tecnologie probabilmente e anche uno scritto sulla sorveglianza e sul riconoscimento facciale e su in che modo queste tecnologie sono implementate nel mondo e anche in Italia, perché non so se avete mai avuto modo di leggere questa cosa, ma qualche anno fa era stato scovato un totem all'interno della stazione centrale che aveva all'interno una telecamera con il riconoscimento facciale, ed era una cosa per cui nessuno aveva chiesto autorizzazione e che registrava di fatto i dati delle persone che passavano davanti a quel totem, che era il totem davanti alla banchina, all'entrata della stazione, quindi prendeva tipo il 50% della popolazione italiana, è stata registrata da quel totem. Quindi insomma tante controversie legate appunto alla profilazione e al riconoscimento facciale e verso cosa stiamo andando e cosa sta succedendo nel mondo da questo punto di vista. Credo sì. C'è anche Selva Varengo sul nucleare. Ecco, ve l'ho detto che ci saranno molte pagine in più, molti argomenti in più, però ora credo di aver finito. Giuro. Beh, guarda, io sono molto contento di presentare la rivista qui, perché sapete, insomma, sono molto legato a questo posto proprio per la vena più narrativa, che è quella in cui cercherò di dare libero sfogo sulle pagine di Emma. Qua ho avuto modo di presentare Memorie di un sognatore abusivo tanti anni fa, cioè l'idea di un futuro in cui questo controllo va oltre il controllo facciale, ma diventa controllo nella sfera più intima che ci appartiene, quella dei sogni, cioè la tassazione dei sogni attraverso un rilevatore. Ecco, diciamo che riprendono i racconti, quello che Carlotta ha generosamente chiamato fiction, i racconti riprendono molto il filone delle lettere dal futuro che ho curato per una decina d'anni su A Rivista Anarchica. Tanto per farvi un esempio, in questo numero l'idea del controllo ricorre spesso, è una mini distopia, ma in realtà in un quartiere periferico è considerato degradato. Io penso sempre un po' a Milano, no? È la città in cui sono nato e vivo da più di mezzo secolo, però c'è un appostamento, c'è un poliziotto in borghese appostato per stanare spacciatori e o consumatori di cocaina. È un carabiniere in borghese in macchina che cerca di stanare pure lui spacciatori di cocaina e i due si arrestano a vicenda, cioè in un proliferare di divise che vedrà l'intervento anche di un vigile urbano, vedrà l'intervento di tante persone, insomma queste divise che diventano la popolazione prevalente di una periferia che assiste molto divertita a questo neutralizzarsi a vicenda delle divise. Questo è, diciamo, un po' lo spunto iniziale del racconto. E l'altro esempio naturalmente ci porta qua, ci porta a questa zona, a questo quartiere. Ho cercato di immaginare, siccome è la frase più inflazionata, tra le frasi inflazionate di questo periodo di pandemia, no? C'è stata niente sarà più come prima, secondo me è vero, sarà solo un po' più uguale a prima, cioè ho questa pessimistica concezione, ho prefigurato un'idea di new movida che dovrà segnare una ripartenza. È straordinario perché nel caso ho scritto questo racconto per l'Expo, l'ho riletto, l'ho riadattato e l'ho rivisto e si attaglia abbastanza bene secondo me con le previsioni, perché ho immaginato che insomma la new movida sarà regolata dalle ronde del silenzio, perché c'è chiasso e chiasso, casino, baraonda, c'è quello funzionale ai consumi dei locali e quindi può essere tollerato. Ma il primo atto delle ronde del silenzio è quello di arrestare un mimo, cioè un artista di strada che proprio non parla, ovviamente, perché è chiassosa la sua esibizione, distoglie l'attenzione dei consumatori che non si fermano nei bar e nei locali. Quindi forse sarebbe meglio chiamarle le ronde del fatturato, però non lo so. Questo è un esempio ulteriore di come, secondo me, una vena libertaria e anche anarchica, diciamocelo, può sposarsi, può stimolare una riflessione. Io spero di non angosciare sulle distopie o di non annoiare, che è anche peggio, no? Cioè ci possono essere anche delle ripercussioni un po' grottesche, come mi piace pensare. E quindi è un'occasione di cui ringrazio sia Carlotta che Sara, perché stanno facendo, secondo me, un ottimo lavoro. È bella l'idea di prendere in mano un testimone per dare vita a qualcosa di nuovo, di vitale, e anche di diverso, che pure faccia riferimento a un'area che possiamo considerare in tanti modi, etichettarla in tanti modi, ma siccome le etichette appartengono sempre al campo, come dire, avverso, che ama definire tutto, io lascerei aperto anche questo. Grazie. Come diceva... come si intitola il libro di Faccioli, troppo anarchico per definirmi anarchico. E visto che tu non hai parlato del tuo pezzo, se hai voglia lo puoi fare adesso, e intanto se ci sono delle domande, delle considerazioni, c'è tutto l'agio di farle. E io vi inviterei a pensare la prossima presentazione, questa chiaramente era proprio diciamo frontale, no? C'è un nuovo progetto, si spiega un po' com'è, i contenuti, i temi, ma la prossima pensarla più interna ai temi, sì, sì. E quindi più mossa. Sì. Le immagini, si danno direttamente le immagini, l'intreccio tra temi e narrativa, la si musica, si legge un pezzetto, insomma ci si immagina qualche cosa per portare direttamente in media res, come si dice, ecco questo. Intanto se hai voglia di... Sì, sì, no, beh, io ripeto, se ci sono domande forse è anche più interessante interagire, se no io posso anche volentieri raccontarvi. Io ho scritto un pezzo su questo collettivo di art attiviste, si definiscono, che è nato nel 1984, ma che ha pubblicato l'anno scorso un libro per i primi, appunto, più di 30 anni di attività, e che è nato appunto nelle strade di New York, nello specifico di fronte al MoMA, dove in quel momento era in corso una mostra che pretendeva, insomma, di raccogliere i 165 artisti più influenti del panorama contemporaneo. Uso il maschile generico non a caso, perché di quei 165 artisti solo 13 erano artiste. E dunque questa cosa ha smosso un attimo di fastidio a questo gruppo di artiste, appunto, che si sono messe una maschera di gorilla per preservare la loro identità e si sono poste all'ingresso del museo protestando, insomma, nelle forme che noi tutti conosciamo oggi, ma che in America appunto negli anni 70 avevano ben conosciuto, quindi striscioni, slogan e quant'altro. Se non che dopo poco questo gruppo si è reso conto che questa forma di dissenso veniva puntualmente ignorata dalle persone, cioè non aveva nessun tipo di riscontro. E questa cosa, insomma, gli ha smosso un pochino insomma, le coscienze, hanno iniziato a chiedersi perché questa forma che fino a pochi anni prima, insomma, aveva ancora un suo seguito, una sua attenzione, adesso non funzionava più. E certamente c'era nell'America degli anni Ottanta un clima completamente diverso, cavalcato anche dal governo di Reagan, un edonismo, un'idea di crescita, di progresso, che, insomma, relegava un pochino questa forma di dissenso a cose di nicchia, ma soprattutto queste art attiviste si sono rese conto di qualcosa di molto interessante, e cioè, riflettendo sul concetto di dissenso, si sono rese conto che il problema stava nel fatto che quando a dissentire erano come dire, le minoranze, qualsiasi fossero, quindi minoranze di genere, di razza, di classe, allora questo dissenso immediatamente prendeva il connotato della lamentela, del compiangersi, quindi una cosa un po', non so, che faceva un po' di tra il pietà e il fastidio, mentre se a dissentire era la classe dominante, quindi per dire bianca e maschia, allora prendeva quella connotazione di critica, di esercizio, insomma, di intelletto, e quindi insomma di anche giudizio di quello che succedeva nel mondo dall'alto della propria intelligenza o del proprio privilegio. E allora a questo punto, insomma, interrogandosi e no, crucciandosi anche di questa cosa, queste artiste, anche forti appunto di questa loro sensibilità creatrice, questa sensibilità da occhio di artista che ti permette anche con più facilità di sovvertire i canoni, si sono risposte dicendo: ok, allora noi faremo una cosa, prendiamo per buono l'assist di Andy Warhol e utilizziamo il linguaggio del sistema, ok? Quindi cosa hanno fatto? Hanno iniziato ad affiggere giganteschi cartelloni per tutta la città, esponendo nomi, cognomi di persone, di istituzioni che nel mondo dell'arte, come dire, erano colpevoli di essere conniventi di questo sistema estremamente razzista e patriarcale. E appunto esponevano statistiche, come nel caso della mostra da cui tutto era partito. E come lo facevano? Sostanzialmente lo facevano utilizzando lo strumento dell'ironia, che loro hanno individuato come quel fulcro attorno a cui muoversi per sostanzialmente fare in modo che le persone, anche quelle magari un po' meno dotate di uno sguardo creativo, fossero in grado di vedere le cose da nuove prospettive senza nemmeno rendersene conto. E quindi appunto utilizzavano, forse qualcuno sarà familiare, l'immagine della donna nuda con la maschera da gorilla con scritto: una donna quindi deve essere nuda per entrare al MoMA di New York, no, facendo riferimento a opere dell'arte classica, in cui effettivamente le donne erano un canone di bellezza, spesso nudo, spesso raffigurante divinità. Da lì in poi, come dire, questa attività è andata avanti, tanto che queste attiviste si sono rese conto che non potevano più affrontare a un certo punto questi temi legati al sistema dell'arte senza affrontare quelli che erano i temi della società in cui vivevano, in cui il sistema dell'arte, di cui il sistema dell'arte da una parte si nutriva e dall'altra appunto che rispecchiava, perché lo sappiamo, l'arte è creata dalla società, no? In cui è inserita, e quindi immediatamente hanno capito che dovevano affrontare anche temi come la povertà, come la violenza di genere, come appunto la questione, si sono occupate della questione dei senza tetto, la questione delle violenze domestiche e tante altre. Quindi nel tempo hanno evoluto i loro lavori in giro, li hanno portati in giro per il mondo, sono comparse maschere di gorilla un po' ovunque dove queste donne ne sentivano la necessità, pensavano che ce ne fosse il bisogno. Ora, perché a noi interessa tutto questo, al di là del fatto che chiaramente è stata un'azione e un modo di affrontare, di sentire creativamente, che per noi può essere interessante, insomma, in generale? Ci interessa in particolare perché, se pensiamo che durante la pandemia una nota casa d'aste ha venduto un trittico di Francis Bacon per 84,6 milioni di euro, e l'ho imparato a memoria, mentre le persone morivano, le persone non riuscivano a mantenersi il lavoro, non riuscivano ad arrivare a fine mese, non riuscivano a pagare le rate dell'affitto, allora capiamo subito che il sistema dell'arte non fa altro che riproporre quello che è il sistema capitalista, dove c'è bisogno di avere i dominanti ma anche i dominati, quindi i vincitori e i perdenti. E per dirla con Benjamin, appunto, la storia in questo modo viene fatta solo, viene scritta solo dai vincitori. Detto questo, appunto, non c'è da deprimersi sicuramente, ma è anche vero che queste art attiviste ci dicono una cosa molto interessante, ci dicono: in effetti pensare che la storia dell'arte possa essere fatta soltanto dai capolavori riconosciuti istituzionalmente fa un po', è un po' ridicola, così come, e questo insomma lo aggiungo io, se noi pensiamo a cosa sarebbe la storia della letteratura a cui noi facciamo riferimento oggi e che consideriamo tale, se fosse soltanto fatta dai bestseller che insomma nel momento in cui sono usciti sono stati riconosciuti come tale. La nostra storia, per fortuna, la nostra storia della letteratura, la nostra storia dell'arte è fatta anche di opere, di persone che nel loro tempo insomma non sono state né capite né soprattutto accettate. Esatto. Voi di là dal... No, è un finto intervento. Assolutamente, sì, hai ragione. Diciamo che allora la parte della scelta è sia la più complessa sia la più bella, quella più stimolante. Facciamo continui brainstorming, continue riunioni tra di noi per insomma capire insomma quali possono essere i temi da affrontare prossimamente. Diciamo che c'è una commistione di cose, da anniversari ad esempio. esempio, gli Arditi del Popolo saranno sul numero 2 perché il numero 2 è l'ultimo numero del 2021 e quindi non volevamo perdere l'anniversario dei 100 anni, perciò sarà sul numero 2, sul numero 3 forse ci sarà Bianciardi, anche quello per una questione di anniversari, quindi c'è sia una questione di anniversari che si fanno insomma vivi e che sono ben presenti in noi, ma soprattutto una questione tematica. Come dicevo prima, cerchiamo di... L'obiettivo che ci siamo dati è un po' quello di cercare di mettere un punto, anche se in realtà non si può fare, e lo sappiamo perfettamente, però cerchiamo di tirare un po' le fila dei vari discorsi che vengono fatti, e quindi dei temi caldi che vengono affrontati, quindi ad esempio la scelta di occuparsi di monumentalistica pubblica e potere è esattamente questo, cioè cercare di tirare le fila di un dibattito di un argomento di cui molto si parla e che ci sembra insomma che sui media mainstream non venga affrontato nella maniera corretta. Anche Frontex, la questione appunto delle politiche migratorie europee è uno dei grandi argomenti che ci sembra insomma che necessiti di un gigantesco dibattito, di una gigantesca riflessione e anche disambiguazione e chiarimento su quello che succede veramente. Diciamo che insomma non c'è una calendarizzazione così stretta, cioè non sappiamo ora dire che cosa ci sarà esattamente sul numero 3, molto è anche dato dalle proposte delle collaboratrici e collaboratori, quindi diciamo che c'è tutto un insieme di input che si inseriscono e che poi finiscono in una sorta di imbuto che è quello delle riunioni redazionali che vengono fatte continuamente e poi c'è questo continuo rapporto che è un mutuo rapporto tra noi e i collaboratori e le collaboratrici, perché insomma quando ci viene fatta una proposta si cerca di capire se quella proposta può stare bene su Emma, perché ovviamente Emma ha un indirizzo editoriale come tutti i progetti, come ce l'ha una collana di una casa editrice, così anche una rivista ha una direzione che si dà e la nostra è quella appunto dell'approfondimento di tematiche da un punto di vista libertario, quindi cerchiamo di capire innanzitutto se quella proposta può andare bene su Emma. Se ci sembra interessante in secondo luogo e poi capiamo con la collaboratrice e con il collaboratore se insomma c'è margine per sviluppare una riflessione sull'argomento. Ora non so se ti ho risposto, ok, forse ti aspettavi qualcosa di più magico e di più interessante, in realtà sono riunioni su Zoom che determinano i numeri, ecco. Sì, anche perché Carlotta è fuori sede, possiamo dirlo, sì, esatto, quindi esatto. Lavoriamo tanto da remoto. Io direi anche che, come dire, è chiaro, Carlotta ha detto una cosa importante, ha parlato di un imbuto, è certo che Emma porta un po', come dire, quello che è il punto di vista della redazione, della direzione editoriale di Carlotta prima di tutto, delle nostre discussioni redazionali e quindi è chiaro che noi ci, come dire, anche prendiamo la responsabilità di questa scelta, quindi di scegliere che cosa inserire, che cosa magari rimandare o che cosa insomma decidere di tenere in secondo piano, quindi sicuramente da questo punto di vista c'è quello che è il nostro sguardo, il nostro approccio, quindi è come per questo che anche io prima dicevo non è la voce di nessuno se non della nostra sensibilità alla fine, ma anche quello appunto della comunità che c'è intorno, dei collaboratori e delle collaboratrici, perché la cosa bella e che io credo rende ricco un progetto come questo è che mette insieme sensibilità diverse, formazioni diverse, professionalità diverse, perché senza l'approccio anche un po' appunto narrativo di Paolo, un po' visionario, un po' anche in grado di andare quel passo oltre a quello che vediamo e quindi dargli un'interpretazione narrativa, certo che Emma avrebbe una cosa in meno e una capacità di analisi in meno, e questo vale un pochino per tutti i contributi che troviamo dentro. Siamo stati esaustivi. Va bene, se non ci sono altre sollecitazioni possiamo chiuderla qui. Vabbè, noi su Belux siamo ferratissimi. Perfetto. Per il 21 faremo un ciclo che si intitola Cent'anni appena, quindi ci siamo. Perfetto. E su Bianciardi, insomma, anche su quello abbiamo le nostre da dire. A parte gli scherzi, se volete pensare alla prossima nella maniera in cui si accennava, va benissimo. Guarda, in realtà è l'obiettivo che ci siamo un po' poste, cioè quello di adesso iniziare con queste presentazioni. Peraltro ne abbiamo fatte pochissime, anche perché il periodo non è ovviamente dei migliori, però cercare appunto di farci anche promotrici di appuntamenti culturali, di dibattiti su un argomento o più argomenti, ecco, e non incentrati soltanto a cosa c'è a pagina 36 o cosa c'è a pagina 57. Ecco, ad un certo punto non lo faremo più, speriamo per voi, ecco. Però insomma sicuramente ci dai, per ci intanto sentiremo. Grazie e auguri. Grazie mille. Vabbè, qua vai a nozze con te. No, ma proprio la mix che ho fatto.